20 e 18 minuti primi sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Vediamo gli... ci scusiamo innanzitutto per gli, i macelli che faremo, già ne abbiamo fatti abbastanza. Mixer nuovo, storie nuove, disco nuovo per Pat, sigla vecchissima proprio per non confondere 25 O'Clock con questo spazio. 25 O'Clock si terrà poi fra non molto. Appeared there at my shoulder and said, wait. When he came in close beside me, said, don't worry, son, I'm here. If Charlie wants to tangle now, he'll have two to dodge. E intanto vediamo se ci sei, prova. Prova. Sembrerebbe che ci sei. Prova. Forse è più vicino al microfono. Ah, ecco, qualcosa che sai. Sì, sì, ritorna. Allora, ci siamo, dicevamo, presi questo spazio perché è come un vecchio disco tuo, cinema. Sì. Che dicevi, sì, c'è l'amore per il cinema, eppure il cinema perché stiamo a fan cinema. Eppure stavolta infatti è andata così. Eppure questa volta infatti è andata così perché ci siamo... ci siamo organizzati finalmente per questa data, oggi, dopo che è uscito un mese praticamente il disco. Ci abbiamo provato in tutti i modi. In tutti i modi, siamo riusciti poi a fare la presentazione. E poi sul più bello, quando siamo arrivati qui tutto perfetto, tutto preparato, dischi eccetera eccetera, non c'eravamo le chiavi da radio. No, non si può fare. Vabbè, è la vita, è fatta così, è sempre una tribolazione. Dunque, ne abbiamo già parlato del tuo disco, non so se voler subito, prima ancora di inventarci qualcosa, mandare una traccia proprio e... Sì, così di presentazione. Così di presentazione, sì. Cosa, ti sei preparato una scaletta mentale su cosa mandare questa sera? Ma guarda, la faccio subito, manderei Holland & Dozier, che poi Holland è la presentazione. Dozier. Esatto, la numero 2. Eccola qua. Il suo primo contratto senza la data l'ha avuto il giorno in cui lui l'ha mollata, dalla gioia al dolore senza smettere di piangere mai. Sopravvivo a questa, m'ha detto, posso regnare sul mondo, m'ha detto, paga sto giro, metti una scusa e portami via. Palla mia, che posso dire, io non ho svolto per te, ma so suonare io. Ragazzi andavano in prima, lei faceva un muro tra suo padre e l'eroina, e diceva non potete fermarmi, ma farmi perdere il treno. Con la radio accesa nel letto, che non avrebbe dormito lo stesso. She ran away from home, sempre la stessa canzone, la stessa stazione, lo stesso odore. Ascoltami, che posso dire, io non ho svolto per te, ma so suonare online and dozier, anche tutta la notte solo per, anche tutta la notte solo per. lo sanno, sarà il cielo a raccontare chi siamo ed è una fregatura. Anzi, anzi, è una santa la luna. È una santa la luna. È una santa la luna. È una santa la luna. È una santa la luna. È una santa la luna. È una santa la luna. Bella mia, che posso dire? Io non ho sconti per te, ma so suonare io la tutta la notte, solo per te. Allora, ci siamo, 20 e 25, finalmente in diretta. Allora, Onda Rossa 77.9 della modulazione di frequenza, la banda romana e laziale, 0649 1750, il numero di telefono, e siamo con Pat in studio. Il disco nuovo si chiama Monostereo. Monostereo, e ce lo racconti un po' la genesi, il perché Monostereo? Già hai accennato, perché ci siamo sentiti, sì, in questi mesi, però magari facciamo un po' riassunto di quello. Sì, come avevo già detto, è stata una storia travagliatissima, perché è passata attraverso diversi studi, ci ha avuto varie fasi di gestazione, perché all'inizio avevo cominciato a fare questo disco perché pensavo che quello precedente, Small Town Boy, fosse definitivamente finito, che nessuno me lo facesse uscire. Invece me lo sono ritrovato tra capo e collo, e quindi in un primo tempo ho lasciato perdere questo. Ho ricominciato a scriverlo, poi c'è stata la pandemia. Questo qui più prima della pandemia, insomma, sì, prima della pandemia. Durante la pandemia è stato un problema, ho continuato a scrivere il disco. Dopo il problema sono stato io, come ti dicevo pure l'altra volta, perché poi me ne sono reso conto dopo, perché ho messo in croce questi vari tecnici del suono e ingegneri del suono per cercare di tirare fuori questo suono, e non riuscivo a esprimerlo io a parole o a gesti, e quindi prima l'Elsmell a Ostia e poi all'Ombrelobo Studio non riuscivo a tirare fuori il suono che volevo. Allora poi il mixaggio e le riprese me ne sono fatte tutte a casa, tranne le batterie che sono state fatte all'Elsmell, e ho mixato tutto io. E poi è stato fatto il mastering all'Ombrelobo, perché noi, come sai, ci vediamo solo di lui per la finalizzazione del prodotto, che di Valerio. Valerio Fischi. Quindi è un disco, a parte vorrei dire completamente autoprodotto, ma nel senso autoprodotto, nel senso pure autosuonato, più o meno te lo sei suonato tutto tu, a parte la parte delle percussioni. Sì, hai detto bene, è totalmente autoprodotto nel senso più nobile del termine. È stato fatto tutto da me, tranne le batterie che sono state fatte appunto. Che poi te nasci come batterista. Sì, sì, infatti avevo fatto, diciamo, delle batterie sintetiche che Alex Allesmell ha preso e ha risuonato praticamente uguali. Okay. Però col tocco suo, che è un grande batterista, e tutto il resto, bassi, chitarre, synth, voci, cori, tutto quanto poi me lo sono fatto da solo. Tutto in pandemia. Fatto in casa. In pandemia, quando non si poteva uscire in nessun modo, mi sono messo a fare questo disco con grande tribolamento. però con grande cura pure, insomma, no? Cioè, te ci sei impegnato proprio fino allo sfinimento, insomma. Sì, lo sfinimento era proprio quello, che poi quando fai il disco in uno studio, a un certo punto devi trovare un compromesso tra te e il tecnico del suono, con te stesso. Prima che te mena, insomma, diciamo. Invece prima che te meni da solo, non lo trovi quel compromesso da solo, poi la perfezione, perché sai quello che esattamente quello che vuoi. Capisco che capisco quello che vuoi dire. Difficile mettere la parola fine, insomma, difficile. Quello. Infatti c'è un famoso proverbio, se posso dire, che dei fonici, che ho scoperto da poco, che dice che i mix non si finiscono ma si abbandonano. Certo. Certo. Perché sennò non finirebbe mai. A un certo punto dici basta, perché è ok. Invece il concept del disco, cioè, ho usato questa parola, cioè, cosa vuoi dire, cosa vuoi raccontare rispetto poi, vabbè, diciamo, per chi non conosce Pat, nato come, vabbè, tante cose prima, varie automatiche aggregazioni, gli ultimi, insomma, chi più ne ha più ne metta. E poi finalmente decide di fare il cantastorie, che è una parola brutta, no? Oggi, storyteller, no? Storyteller, esatto. Cantastorie è un po' così, si dice, no, quello che mica son cantastorie, esatto, mica son cantastorie, quello che ti racconta a balle. Invece no, non sono balle quelle che racconti, ma sono appunto le storie. Quanto è importante il luogo, il vissuto nella stesura delle storie? Ci sta fantasia oppure... Le storie sono basate a... Le canzoni testi. Possiamo dire al 90% sulla verità. Soprattutto le storie narrate in quanto storie, cioè non storie mie, ma storie che ho sentito, storie che ho visto. Quelle sono quasi tutte vere. Poi ci sta anche la tragedia, oppure il lato drammatico, magari ce lo aggiungi un attimo per fare la storia più intensa, ma il senso comunque era quello. E infatti questo disco qua, diciamo, da questo punto di vista è un po' come gli altri, sempre un misto tra storie che vedo in giro, che sento, che mi raccontano, che cerco di rimettere. Infatti mi sono fatto pure qualche nemico per questo motivo, perché ogni tanto qualcuno dice: ma che so io quello? Infatti era lui. E poi mischiate con roba mia personale, come ho sempre fatto, ecco, un po' di, non so mai come chiamarla, diciamo un po' di lettura sociale, ecco, vogliamo chiamarla così. Vedo le cose, cerco di dare un'interpretazione anche politica, se vogliamo, dal basso della mia ingenuità politica, che ormai tutti conoscono, che cerco di dare un'interpretazione di pancia, insomma, collettiva, diciamo, un'interpretazione collettiva, nel senso che riguardi tutti quanti. Forse quella è politica. Senti, di queste storie cosa pensi che potremmo ascoltare adesso? Magari la raccontiamo pure, se vuoi, prima o dopo, quando vuoi. Io penso Luci della città, che è quella più storia di tutti quanti, che è appunto una delle storie che ho sentito raccontate in zona mia, in zona pure qui di Rock and Ritz, che mi ha accompagnato stasera. Che è la storia di una periferia nella periferia, ovvero dove viviamo noi già è un posto a metà tra un paese e una periferia. In più, questo posto che racconto sta alla periferia del paese nostro, e lì è veramente la vita è dura, e i ragazzi crescono abbastanza cattivi, abbastanza affamati, come si dice, avvelenati. E racconta appunto una storia, una classica storia che chiunque ha vissuto soprattutto il periodo degli anni 90 potrà assolutamente immedesimarsi, perché erano cose che soprattutto quando eravamo ragazzini noi succedevano tutti i giorni. Sì, poi magari approfondiamo pure, ti faccio pure un paio di domande proprio sull'Uni della città. Adesso ce l'ascoltiamo, Radio Dorsa 25 O'Clock, Pat con noi in studio, che presenta il disco Mono Stereo. Lasciava aperto a tutti quanti, e dopo scuola, prima di tornare per mangiare, facciamo erba tra le statue dei santi. E la mia vita scivolò così, cieco di rabbia come un animale. A volte mi chiedo perché ci hanno chiuso tutti qui, che il più pulito c'ha la condizionale. E penso, mamma, solo tornerò a bar, questa galera, io non riesco a vedere le luci della città. Germano Fabbri è un tipo eccezionale, prima bandito e poi rapinatore. Era il 90 quando seppellì la sua pistola, ha costruito sto quartiere in 24 ore. La mia famiglia ebbe la casa nuova lungo la strada per il centro edile. La notte costruiscono martello e sega senza tregua, e la mia stanza non riesco a dormire. E penso, mamma, solo tu mi notte al bar, papà sei andato con Dio, e da questa galera io non riesco a vedere le luci della città. Stefania aspetta alla cabina, sì, che vuole andare a ballare. Ma sai com'è la vita, due pasticche, mezzo trip, io e Germano sull'Aurelia verso il mare, e mezza boccia di whisky, e si parlava di impicci, freccia negli Emirati per i cani avvelenati, vestiti giusti e intenzionati sbagliati, ma troppo rumore per roba da niente, non l'ho toccato nemmeno un sergente. Germano non sapeva che la bimba ha 15 anni, e per difenderla mi becco 20 anni. Ma io vengo da un Vietnam di palazzi scuri, non è un arresto, questo è un trasferimento. Ogni domenica Stefania arriva in parlatorio, il suo profumo mi divora. E penso, mamma, solo tu mi di notte al bar, papà se ne è andato con Dio, e da questa galera io non riesco a vedere le luci della città. Eccoci tornati in onda, quindi Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, Patta in studio. Dunque, la storia di Luci della città, Luci della città, non le luci della città. Luci della città. Luci sì. Della città. Vabbè, racconta di un quartiere che nasce appunto da, poi dalla campagna, la descrizione di questa periferia, è una periferia che conosciamo, ma soprattutto proprio perché c'è questo rapporto grosso fra metropoli e quello che ci gira intorno, i satelliti della metropoli, che poi sono queste enormi periferie che si sono sviluppate negli anni, appunto, come dicevi te, dagli anni 50, diciamo, si è sviluppata la periferia romana, poi a un certo punto 60, 70, 80, 90, sto fenomeno della gentrificazione dei quartieri di ex periferia della e l'espulsione proprio della popolazione, della gente verso i vecchi paesi del circondario, insomma il processo sommariamente descritto così. Quindi una periferia che però non c'ha, che c'ha una vocazione, che appunto c'ha i vecchi, te raccontavi nei primi dischi storie dei braccianti di galeria, sì, no? Sì, sì. E quindi c'ha questo tipo di storia, poi improvvisamente viene interrotta, e anche si parla di emigrazione, tante volte l'emigrazione avviene appunto in questi. Però per tagliarla corta, come ti vivi il tuo rapporto con il territorio? Cioè, ci verresti mai a, magari per motivi pure di lavoro, perché te trovi meglio, perché comunque a Roma ci stanno, ci verresti mai a abitare a Roma, a vivere a Roma, insomma, ci hai mai pensato? guarda, ci ho pensato, mi è stato proposto un sacco di volte, pure ultimamente, cioè quando stavo con la ragazza con cui stavo prima, di venire a vivere a Roma, ma io non potrei. A Roma proprio no, io ho sempre detto che se me ne devo andare ad Anguillara, a questo punto me ne vado proprio. Cioè forse valico proprio i confini, perché devo venire a Roma? È una città che, nonostante la storia, la cultura, che non metto in discussione, anzi sono anche appassionato di cultura, soprattutto di quella romanesca, di poesia, di canzone, cioè, ma al di là di quello è una città che, riguardo a come la si Roma vive, di oggi, insomma, sì, a come si vive dalle parti mie, è una città che parzialmente odio pure. Cioè non riuscirei mai a starci in un quartiere pieno di cemento dove se un giorno ti rode vuoi prendere cane, io vado sul lago o vado su qualche collina o certo, o mezzo a un bosco, qua dove vado? Non saprei dove andare. Certo. E riguardo al discorso della canzone che facevamo prima, sì, dalle parti nostre poi è stato un discorso soprattutto di speculazione edilizia, perché agli anni 80 sei riempito di questi sciagalli speculatori, racconti che i palazzi venivano su come funghi nell'arco della notte, è vero, è verissimo, perché c'avevano un sistema per tirare su questi palazzi, di notte facevano le parti che non si potevano fare di giorno, in modo che se c'era la forza pubblica il giorno dopo se le trovava già il famoso tetto fatto, se le trovava già fatte e potevano condonare dopo, no? Certo. E quindi c'era sto sistema di finire le case di notte. E questi quartieri sono venuti fuori, da noi sono venuti fuori così, speculando, c'erano sti assassini che non so altro che hanno costruito questi quartieri fantasma dove sì, cioè non era la casa per loro, cioè erano case e poi non c'è lì, non c'è un servizio, non c'è niente, strade, tu vai, se non te ne vai ci muori. E poi siccome questi costruttori erano tutti gente insomma dal passato turbolento, perché poi quello sei, va a finire che tutti questi caseggiati che hanno fatto hanno creato praticamente un quartiere dove, dice la canzone, dal più pulito c'è la condizionale, certo, amici da amici da amici, è un quartiere dormitorio di gente con la fedina penale inquinata, quello è. E lì ci siamo, ti sei trovato insomma pure a crescere insomma in questo, sì, vicino, diciamo, vicino a questa vicino situazione, avendo modo di conoscerle. Senti, andiamo avanti con l'ascolto del disco. Cosa vogliamo proporre, sempre raccontando un pochino, pure per entrare un po' nel, perché poi mi piace tirar fuori il pat pensiero, no? Quello che si però fa. No, sto leggendo il libro di Flavio Frizzano, Le razze a parte, ci state pure voi insomma, tra l'altro, a un certo punto citati. E lui racconta dal suo punto di vista, sempre da Tuscia, eccetera, di come è diventato skinhead, eccetera. E poi c'è sta racconto delle varie personalità, compagni, non compagni, skinhead, che raccontano un po' la loro storia, no? E c'è questa evoluzione, cioè tanti ti dicono: ah, io sono come prima, certo, non mi vesto proprio esattamente così, però altri invece ti dicono: beh, insomma, adesso faccio altre cose, però tutto sommato, diciamo, quell'imprinting iniziale, quella storia non te la riesce non te la riesce, non vuoi lavartela di dosso, insomma. Te come vivi il rapporto di questa evoluzione ormai insomma puoi guardare agli anni addietro come un po' la storia, no? Sì. Come ormai tanti anni dietro e tante esperienze fatte, come ti vivi invece il tuo rapporto proprio col passato, con quello che eri e quello che sei adesso? E poi rientro proprio nella categoria che dicevi di Flavio, quindi io proprio mentre parlavi mi veniva in mente che io sono uno di quelli che dico che sono cambiato, non so più come loro, ma è una cosa che non riesci a lasciarti indietro, perché è una passione talmente forte quando eravamo pischelli noi, che la musica, il vestiario, cose che a tanti sembrano inutili, ma a noi veramente nel vero senso della parola ci faceva sentire vivi, no? E quindi è una cosa che anche oggi, che non mi vesto più in un certo modo e tante volte non ascolto quella musica, sono sottoculture che non riesci a lasciarti alle spalle, sono sempre appassionato di quella roba là, non riesco più a definirmi skinhead come però Terence più facile 15 anni fa, insomma, non è nemmeno giusto secondo me definirsi in quel modo, perché è essere in quel modo è una presa di posizione netta nei confronti della società. Se tu non lo sei, non è che te ci puoi definire soltanto perché porti un paio di scarponi, quindi certo. Però sempre pieno di rispetto e di nostalgia per, per quegli anni là, che erano fantastici veramente, vissuti poi tra l'altro tanto qua, su sta via, perché qui è sempre stato certo. Proprio il centro della vita, sì, i negozi, sviluppava... Valerio. Certo. Nel frattempo è arrivato Elettrodo, a cui forse ruberemo qualche minuto, comunque 20:43. Dicevamo, come vogliamo andare avanti con il racconto a questo punto? Allora, di questo disco, una canzone che è collegata a Luci della città e Alabama, praticamente è la stessa cosa. E questo fascino ogni tanto invece ha detto prima, no? Tra l'altro hai detto, ma a Roma non ci avrei mai, se mai emigro, insomma, sì. Me ne va. Quale sarebbe il posto dove l'America ha il suo fascino, forse? Eviterei tutte le mete classiche, tipo me ne vado a Londra o me apro un ciringhito alla Hawaii. Andrei, penso, in Francia oppure in Sud America. L'America invece la lasciamo, gli Stati Uniti li lasciamo come mitologico, diciamo, sì, peggio influsso. Di noi. Sì. Beh, però c'hanno tanta periferia, dai. Sì. Quando parli di Alabama, quello sì. Va bene, allora, quindi Alabama, che sarebbe la quarta traccia, dopo ce la racconti. Cantare canta bene, e questa non è America, ma è una sudicia balera, con un cartello bello grande che impara la statale. Alabama stesso a ballare. È meglio di così, non poteva augurarsi. E 48 minuti primi, ancora con Pat in studio, Alabama. Però non sembra, cioè il titolo quasi confonde le acque, mi pare, poi magari ho capito male. No, confonde le acque, perché l'Alabama del titolo, nonostante sembri esotico, era una balera che c'era in zona da noi, e quindi diciamo la canzone ruota tutto intorno a sta balera con cui si conclude il pezzo. Parla, per quello dicevo che insomma è simile a Luci della città, perché parla sempre dello stesso pezzo di provincia nostra, e parla con tre punti di vista, tre modi di vivere la provincia nostra. Il primo è quello della ragazza dell'inizio della canzone, che ci rimette il proprio sangue per cercare di scappare da questa cittadina stile Twin Peaks, no? E il secondo è Lino Narrante, che dice che vorrebbe una sola ragione per scappare, cioè che qualcuno gli dia questa maledetta spinta una volta per tutte per andarsene via. E terzo è appunto questo Tony, che è un cantante da balera che ormai si era assegnato a vivere in provincia, suona all'Alabama per 60 euro e tre negroni per suonare tre ore ogni sera, è liscio e niente, e gli sta bene così. Quindi questi sono i tre. Le piccole storie, però così alle volte molto dense, di appunto, insomma, tre modi diversi di vedere poi in fondo la vita, la periferia, il luogo dove si vive. Sì, poi quello centrale, quello del Lino Narrante, forse è il più contrastato, perché lui veramente sta per tutta la canzone a dire che questo non gli va bene, quello non gli va bene, c'ha problemi qua e là, la gente gli dà fastidio perché so retrogradi, eccetera, però non trova sta benedetta ragione, che poi dice nel ritornello non la trova, per andarsene a fanculo, come dice lui, una volta e per tutti andarsene via. Certo. Forse perché non vuole. E vabbè, nel rapporto conflittuale che dicevamo prima, no? Cioè, tutto sommato, arrivare a odiare la propria periferia, il proprio quartiere, il proprio territorio, pure perché poi alla fine appunto c'hanno il peggio del paese, nel senso che poi c'è sta la cultura paesana che tutti conoscono tutti, e quindi non puoi sfuggire. È il peggio dell'essere satellite della metropoli. È un po', insomma, intorno a questo che poi gira un po' tutte le tue storie, no? Intorno a questa ambientazione, ve l'abbiamo già detto. E io pensavo invece a Banditi senza tempo dei Gang. Perché mi veniva in mente? Perché a un certo punto uno dei fratelli Severini dice, con la sua parla di Joe Strummer, e dice con la sua chitarra appunto fa la sua Magnum Les Paul spara canzoni che fanno male. Cosa pensi? Cioè, è possibile in qualche maniera attraverso la Magnum Les Paul, però insomma attraverso gli strumenti che suoni, attraverso pure il fatto che forse finalmente, poi ce lo dirai, riusciremo a ritornare a suonare live, insomma, se già hai fatto qualcosa, a presentare il disco in giro, e serve a qualcosa quello che facciamo, quello che fai, noi lo presentiamo, te lo fai, in termini, quello che dicevi te, no? Di essere anche un po' politici, anche un po' stimolanti in quello che si dice, insomma. Nel mio caso serve a livello documentaristico, nel senso non ho la pretesa e nemmeno l'aspettativa di smuovere niente con quelle canzoni che faccio io. Poi so altrettanto certo che invece in giro c'è gente, soprattutto nei paesi dove la repressione è ancora più dura che da noi, soprattutto nei paesi che hanno bisogno di una storia che vada raccontata, come dicevi prima tu sui gang, nei paesi d'America Latina, lì sono convinto ancora che le canzoni possono cambiare le cose, come hanno fatto già in passato poi. Perché cioè, se Victor Jara viene ammazzato con tutta la chitarra appresso, certo, cioè un motivo ci sarà, se era innocuo non sarebbe stato ammazzato. Certo. Io però non ho questa pretesa, voglio soltanto raccontare quello che vedo, raccontare storie di chi lotta sul serio, perché non me ci metto nemmeno io. io non me ci metto nemmeno, non sono degno nemmeno di de stacce, perché ci stanno delle persone e le conosciamo tutti che lottano e rischiano la vita e la libertà pure per me che non lo faccio. Quindi io scrivo soltanto canzoni, ogni tanto vado sul politico perché c'ho una visione e penso che ogni tanto la devo mettere in gioco senza la pretesa di con quelle parole di cambiare il mondo, che tanto non lo cambierò certamente io, ma qualcuno lo farà. Quindi spero che servano almeno di ispirazione a chi poi lo deve cambiare il mondo, o almeno accompagnamento. Almeno va bene. E per accompagnamento, dunque, su ogni disco c'era una canzone che almeno appunto uscire un pochino dalla periferia, non mi ritengo all'apertura al finale di Cinema, no? In cui fai quel blues, adesso sì, non mi ricordo qual è Propaganda. Il Propaganda, esatto. Oppure mi rivolgo il pensiero alla canzone che avevi fatto su poi tra l'altro, ecco, è una canzone che abbiamo mandato proprio quando su Abdu, no? Che abbiamo mandato proprio qua, adesso di recente, quando un altro facchino purtroppo in uno sciopero ha trovato, insomma, è stato ucciso praticamente. In questo disco c'è una cosa in cui vai a analizzare, ecco, un aspetto un po' più generale al di fuori del... Sì, diciamo che ci sono dei messaggi, ci sono disseminati, sì, un po' dappertutto, certo. Però c'è una canzone in particolare che parla di un argomento simile a quelli che dicevi tu, che è Madre. Che avevo cominciato a scriverla, l'avevo buttata da una parte perché all'inizio era soltanto nella prima strofa che avevo scritto soltanto una canzone sull'indifferenza, sempre cinematograficamente come piace a me improntare le canzoni. Trovavano questo morto lungo a terra e nessuno ci faceva caso, e chi camminava sopra, chi faceva le foto dal balcone e si ritirava dentro le persiane. Ma non riuscivo a finire questa canzone e poi è successo tutto quello che è successo con George Floyd e allora giustamente la seconda strofa è venuta da sola, perché la prima sembrava scritta apposta per quello che è successo, e quindi una critica su quel sistema e anche una canzone che celebrasse in qualche modo tutto il movimento dei Black Lives Matter, sì. E quindi mi sono sentito di fare questa canzone che parla esclusivamente di quello. Va bene, ce la vogliamo sentire, quindi sì, penso che sia ci siamo arrivati. Madre, mi pare che è la traccia numero 3. Quindi ne mandiamo Madre adesso. Pat, studio a Redonda Rossa, 25 o'clock non è uno spazio così al lato di 25 o'clock, quindi Madre, Pat. Era giù per la strada come un ferro vecchio, era disteso su un fianco, l'occhio aperto, serrando e che sbattono, qualcuno cambia via, e più cerco un senso, e più ci ripenso, e meno comprendo l'opera macabra, sotto i fari del rione. Qualcuno scatta tre foto come un cecchino fuori al balcone. Hanno lavato via il sangue, ma il sangue ancora lì. Tra le macchine in sosta in un mondo largo di chilometri, vicino a casa tua. Ma non può essere vero, non può essere vero. E se fosse tuo figlio, se fosse tuo figlio, dimmi. O guardano bene negli occhi se fosse figlio tuo. Non dormiresti più, madre. Oh no. Thank you. quando perdete la guerra, è chiaro. Stavamo perdendo in chiacchiere, 20:59, quindi lasciamo lo spazio alle prove tecniche di trasmissione elettrica, che ringraziamo per qualche minuto che gli andremo rubando. Dunque, ringraziamo Pat per la presentazione che ci ha fatto, e anche perché ha fatto una chiacchierata, insomma, così anche un po' fuori dai denti. Vogliamo proseguire, hai voglia di proseguire live eccetera, ma che cosa succede? Succede che questa recrudescenza della pandemia, dell'emergenza, ci ha ristroncato le gambe un'altra volta, e quindi nonostante c'erano varie presentazioni in giro per tutta l'Italia di monosterio da fare, non se ne farà nemmeno una, almeno per questo mese. Poi il mese prossimo non lo so. Qui si vede giorno per giorno, perché certo, non si può stare. Se le condizioni lo permettono, quindi sei pronto a partire. Quindi avevamo Roma, Firenze, Milano, Venezia da fare, e sono saltate tutte, quindi vedremo. Poi tra l'altro i viaggi fanno viaggi, conoscere, andare, fanno esperienza, fanno, come si dice, sì, di altre storie da raccontare, quindi non si finisce mai. Non si finisce mai la fabbrica di San Pietro. Va bene, dai. Dove si può trovare almeno il disco, diciamolo, dai. Il disco potete scrivere direttamente all'etichetta che l'ha stampato, ovvero Astia Records, che ringrazio. Oppure scrivete direttamente a me su Facebook, sui canali eccetera, oppure lo trovate da Radiation, Bandcamp, se no, sì, se no pure da Radiation, su Bandcamp, un po' dappertutto lo trovate. Va bene, quindi dai, un bel dischetto di Pat da mettere dentro la collezione, a noi ci piace. Non hai potuto fare il vinile, purtroppo, ce l'hai detto, sì, è stato veramente un problema. E vedremo di recuperare col successione che ci avrai, perché spero che, dai, accompagni e compagni, gli piace questo disco. E comunque, appunto, poi ci sta pure su tutte le piattaforme, quindi sì, se volete ascoltare liberamente non c'è problema. E dai, è fatta, alla prossima, speriamo di vederci pure live. Lo lasciamo così, come una roba appesa, sì, se speriamo ci riusciremo, che ci riusciremo a portarti pure come radio, come hai fatto tra l'altro tante volte, sì, dai. Grazie, okay, grazie ancora. Ciao Pat. Ciao. Vogliamo mandare l'ultimo pezzo prima che arriva che cosa? Sì, l'ultima traccia, Vita Nuova. Vita Nuova, dai. Pezzi da 5 in tasca, meglio così. Roba da niente, dicevi piano, prima di masticarmi il cuore e sputarmelo in mano. E se senti la mia voce, dovresti stare in questa stanza adesso. Ma tu vuoi vedermi perdere lo stesso? Ma tu vuoi vedermi